si può fare. Cronache da un paese migliore di Alessio Maurizi. Buongiorno e buon sabato, cari ascoltatori, eccoci qua con Si può fare, insieme fino alle 10. Cominciamo tra poco dando un'occhiata ai giornali di oggi, quindi con una rassegna stampa abbastanza veloce che ci accompagnerà fino al giornale radio delle 8. Poi apriremo il numero verde per intervenire in diretta, partiremo anche oggi con i nostri approfondimenti. Cominceremo parlando delle manifestazioni a sostegno della legge sulle unioni civili, tema che rimane in primo piano, almeno nel nostro paese, e poi tante altre cose insieme fino alle 10. Adesso, come detto, iniziamo con i giornali. Vi ricordo anche i nostri contatti se volete chiacchierare, interagire con noi fin da subito in tempo reale: la pagina Facebook Si può fare trattino radio 24, l'account su Twitter è @ Si può fare 24, il mio personale @ Ale Maurizi. Poi naturalmente c'è anche il numero SMS 349 238 6666. Vai. E allora, i giornali di oggi che grosso modo titolano tutti sulle parole del Papa in tema di unioni civili. Papa Francesco che ieri è intervenuto su questo, e poi insomma notizie in ordine sparso, un po' di economia con la ripresa della borsa dopo le preoccupazioni dei giorni scorsi e altre cose. Cominciamo con il titolo più bello oggi su questo argomento lo fa il Manifesto, perché comincia così, con Family Gay, dato che oggi appunto si annunciano manifestazioni in tutta Italia a sostegno della legge sulle unioni omosessuali, sulle unioni civili. Il Manifesto se ne esce con Family Gay, manifestazioni in 100 città per i diritti delle coppie omosessuali, e per chiedere al governo una legge come sollecita l'Europa in vista della discussione sul DDL Cirinà. Renzi difende il suo testo, libertà di coscienza, ma adesso si vota. Il Papa invece benedice la Sacra Famiglia, niente confusione tra unioni civili e matrimonio. E infatti è questo, diciamo, il senso delle parole usate ieri da Papa Francesco, che è lo stesso Papa che aveva detto: chi sono io per giudicare un gay? Evidentemente deve esserselo ricordato, qualcuno gli ha fatto ricordare. Lei è il sommo pontefice della Chiesa Cattolica, caro Francesco. Se lo ricordi, noi siamo quelli che sappiamo bene la differenza tra il bene e il male, noi siamo quelli che ci basiamo su questi testi antichi scritti 2000 anni fa, non è che ci possiamo far prendere la mano da queste cose moderne tipo le unioni civili. Quindi niente unioni civili, ma sì al matrimonio, l'unico quello basato sul patto, come ha detto ieri il Papa, indissolubile, unito e procreativo, cioè le coppie eterosessuali che si sposano sotto il vincolo della Chiesa e possono fare figli. Gli altri possono anche aspettare a ricevere, diciamo, una qualche consacrazione. Qualche giornale, qualche editorialista, qualche commento dice: sì, ma il Papa ha comunque evitato il muro contro muro, non c'è andato giù pesante, ha fatto il minimo sindacale, ha detto quello che un Papa, il capo della Chiesa Cattolica, non poteva non dire. E giusto per ricordarci però di quello di cui stiamo parlando, può valere la pena, come fa Corriere a pagina 2, di valutare, cioè di vedere la classica situazione in cui si trova l'Italia rispetto al resto dell'Europa, tanto per avere il termine di paragone più vicino a noi. Nell'Unione Europea siamo l'unico paese, non c'è bisogno di dirlo, insomma, dove non c'è un riconoscimento, insomma, delle unioni civili, tantomeno del matrimonio tra persone dello stesso sesso. Il matrimonio che c'è in Islanda, c'è in Olanda, c'è in Irlanda, in Gran Bretagna, in Belgio, Francia, Spagna, Portogallo, Lussemburgo, Norvegia, Svezia, Danimarca, Finlandia, forse me ne sono dimenticato qualcuno. Ci sono paesi dove non c'è il matrimonio tra persone dello stesso sesso, ma sono, diciamo, consentite le unioni civili, esattamente quello che vorrebbe fare l'Italia. e questi paesi sono tanti, a cominciare dalla Germania, Ungheria, Croazia, Austria, Grecia, Cipro, Estonia, insomma siamo gli unici che non prevedono nessun tipo di riconoscimento. L'altra questione, quella della stepchild adoption, cioè della possibilità di adottare da parte dell'altro partner il figlio naturale di uno dei due partner, anche questa c'è in vari paesi, Francia, Spagna, Gran Bretagna, Estonia, Austria e anche sempre in Grecia. Ma a questo proposito vediamo l'intervista interessante ad un senatore onorevole, non ricordo se senatore o deputato, senatore del Partito Democratico, che è un cosiddetto cattodem della minoranza, diciamo, cattolica centrista. Lui viene da Scelta Civica, si chiama Dalla Zuanna, Giampiero Dalla Zuanna. Tra gli emendamenti presentati ieri al DDL Cirinà, oltre 6.000, ce n'è uno che prevede il carcere per chi ricorre anche all'estero al cosiddetto utero in affitto, cioè alla gestazione per altri, cioè uomini in generale, omosessuali, spesso capita, e all'estero è consentito, negli Stati Uniti, in Canada per esempio, adesso non so esattamente dove, in alcuni paesi insomma nel mondo è consentito di far questo, insomma la gestazione da parte di una donna inseminata con il proprio seme o anche con altro seme, col proprio seme, e poi dopo i 9 mesi il bambino nasce, la donna non lo vede nemmeno e lo dà alla persona che gli ha chiesto la gestazione. È una pratica discutibile, è una pratica molto estrema, infatti non è consentita per esempio in Italia e in tanti altri paesi, ma insomma di lì a prevedere il carcere per chi lo fa nei paesi dove è consentito e poi si porta il figlio in Italia, ce ne corre, non ci aveva ancora pensato nessuno. Ci ha pensato Dalla Zuanna, che prevede appunto una pena da 2 mesi a 3 anni con una multa che può andare da 600.000 a 1 milione di euro per queste persone, anche se dice Dalla Zuanna questa legge non sarebbe retroattiva, varrebbe solo da avanti, da adesso in poi insomma, anche perché se viene accertato, spiega, che non vi è alcun legame biologico del bambino con uno dei due partner, gay o eterosessuale, il giudice potrebbe addirittura dichiarare lo stato di adottabilità, il bambino verrebbe quindi tolto alla coppia. Vabbè, insomma, questo diciamo in caso in cui non si tratti nemmeno di una gestazione per altri, ma di qualcos'altro, sottrazione di figli, non so che. Ma poi Dalla Zuanna spiega la ratio di questo emendamento, che prevede appunto, ripeto, il carcere per chi ricorre all'utero in affitto all'estero, nei paesi dove è consentito. Lo sa perché lo facciamo? Perché le donne che si prestano a questo tipo di gravidanze poi devono firmare e promettere di non voler mai più vedere le creature che hanno messo al mondo. Il nostro emendamento vuol proteggere quelle donne lì. Poi però lo stesso senatore Dalla Zuanna, colpo di scena, non andrà al Family Day, non è contrario al riconoscimento delle unioni civili, anzi penso che le coppie omosessuali, che ormai sono una realtà importante, abbiano diritto ad avere tutti i diritti, compreso quello di adottare un bambino. Qua si rovescia la prospettiva, non parliamo più di adozione del figlio naturale, ma di adozione tout court. Dipendesse da me, dice Dalla Zuanna, se ne potrebbe parlare. Purtroppo temo che il nostro paese non sia ancora culturalmente pronto, c'è un tasso di omofobia così diffuso. Però una cosa è l'adozione, una cosa è la stepchild adoption. Io credo che tra le cose che sono state dette, una cosa intelligente è quella che è stata detta, credo, da Mara Carfagna: ci vorrebbe una legge apposta sul tema delle adozioni, giacché questa questione sta sollevando un grande polverone di sentimenti, di idee, di sensibilità. E poi c'è tutto il tema dei bambini non adottati, in Italia sono ogni anno circa 30.000, e quindi perché non modificare, semplificare queste possibilità e poi affrontare quindi anche il tema dell'adottabilità da parte delle coppie omosessuali, separarlo dal tema delle unioni civili, che potrebbe così, diciamo, essere approvato senza tanti patemi. Va bene, adesso per un po' non parliamo più di questo argomento e invece di cosa parliamo? Ma possiamo parlare intanto per esempio dell'incontro che c'è stato ieri tra Renzi e Tim Cook, il numero uno della Apple, erede di Steve Jobs, che ha annunciato, lo sapete, un patto digitale per il Sud e la nascita di un centro di sviluppatori a Napoli. Non avete mica un Samsung, ha esordito così Renzi di fronte ai 5 sviluppatori, ragazzi, che tremanti per l'emozione hanno presentato le loro app a Tim Cook, il capo della Apple, a Palazzo Chigi. Pochi minuti ciascuno, ma ovviamente tutti avevano un iPhone. Selezionati dalla Apple, i programmatori hanno partecipato all'incontro tra Renzi e Cook a Palazzo Chigi, che ha suggellato la decisione del colosso di Cupertino di aprire un centro di sviluppo a Napoli. Si tratta di che cosa? Di una vera e propria scuola di formazione. 600 studenti si alterneranno ogni anno per imparare a sviluppare per il sistema di Apple, appunto. Per la location si parla di Bagnoli, dove è in corso una bonifica dell'ex stabilimento Italsidere. Insomma, una buona notizia tutto sommato per la nostra economia, per il nostro sviluppo. Entrare così, diciamo, in sintonia con una grande azienda come la Apple, poi qualcuno dirà che sono stati fatti favoritismi, che sono state fatte condizioni di favore, non lo so. Bisognerà studiare questo patto, questa, diciamo, questa intesa economica. Ce ne sono tante tra grandi aziende estere e il governo italiano, ma insomma è un dato positivo che si venga in Italia e che si pensi addirittura al sud, alla Campania, come a un territorio sì, con delle risorse umane e professionali utili, interessanti da approfittarne. Ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un secondo. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi, cari ascoltatori. E allora, torniamo invece per un attimo sul tema delle unioni civili per vedere come lo affronta Avvenire, il quotidiano dei Vescovi. Incontrando la Rota Romana, il Papa ricorda la verità sul matrimonio indissolubile, unito e procreativo, ma Avvenire sposta pagina 7 l'approfondimento su questo, dando più spazio anche con la fotonotizia ad un'altra notizia che evidentemente giudica più importante, e anch'io credo che lo sia, perché si parla delle naufragi, tre naufragi avvenuti ieri nel Mar Egeo, ancora vite sommerse, annegano nell'Egeo 45 migranti, 20 bambini, il bilancio dell'ennesima ed annunciata tragedia del mare, un crimine contro l'umanità, ha attaccato il portavoce di UNICEF Italia. ONG e associazioni umanitarie tornano a chiedere l'istituzione dei corridoi umanitari per salvare la vita di chi fugge dalle guerre e dalle carestie. Intanto, dopo voci e smentite su una possibile sospensione degli accordi di Schengen, ieri, anche questa notizia importante, la portavoce della Commissione europea ha confermato non c'è alcuna sospensione di Schengen sul tavolo. Lunedì ne parleranno i ministri dell'interno riuniti nel Consiglio europeo. Credo in Olanda. Torniamo però alla Stampa, perché restiamo all'estero, su Repubblica c'è un approfondimento sulla giornata di ieri e le consultazioni per la formazione del nuovo governo, con lo stallo spagnolo che va avanti ormai da un sacco di tempo. La foto è quella di Pablo Iglesias che entra per l'audizione dal re in jeans e camicia col codino, insomma. Spagna dal re con i jeans, scene che da noi si vedono in Parlamento, legate soprattutto al Movimento 5 Stelle, che ha fatto dell'informalità, da questo punto di vista, una scelta di vita. Podemos verso il governo, perché la notizia è questa: ieri Mariano Rajoy ha davanti al re Felipe VI ha detto no, niente, rinuncio a far formare il governo. Perché? Perché non ho la maggioranza. Con i 123 seggi ottenuti dalla sua formazione, Partito Popolare, alle ultime elezioni del 20 dicembre scorso, non basterebbe neppure il sostegno dei 40 deputati centristi di Ciudadanos per arrivare alla soglia magica dei 176 voti. La sua proposta di una grande coalizione con i socialisti, un po' la ripetizione di quello che è successo in Italia o anche in Germania, è stata respinta dal leader del Partito Socialista Pedro Sanchez, che preferisce provare a costruire lui un'alternativa di sinistra. Quindi sarà lui a ricevere l'incarico da Felipe VI, col colpo di scena proprio portato ieri da Pablo Iglesias in camicia e codino, che a Felipe ha detto: Sono pronto a sostenere un governo del cambiamento e del progresso col socialista Sanchez, lui come premier e io come vice premier. E questo l'ha detto ancora prima di parlarne con lo stesso Sanchez, inchiodandolo praticamente quindi al fatto di entrare anche lui con questo movimento Podemos, che ha preso un sacco di voti alle ultime elezioni, all'interno del governo. È proprio la ripetizione, ma al contrario di quello che accadde 2 anni fa in Italia, dopo le elezioni, quando fu Bersani a chiedere al Movimento 5 Stelle, ricorderete in diretta streaming l'incontro con Crimi e Lombardi, di dare una mano al governo, di entrare nel governo progressista. Ma allora, diciamo, il Movimento dei Cittadini, il Movimento 5 Stelle in Italia, disse no. Questa volta invece Podemos dice preventivamente sì ai socialisti di Sanchez. Vedremo se poi, al di là delle dichiarazioni, i programmi convergono e convergeranno. Andiamo sul Sole 24 Ore velocemente, perché dicevamo giornata economica importante quella di ieri, borse che si sono riprese ancora una volta in rialzo, quelle europee per l'effetto Draghi. Il presidente della BCE ha ribadito che non ci sono nuove richieste di accantonamenti delle banche, in particolare di quelle italiane, per far fronte ai crediti deteriorati. L'analisi di Moria Longo: la Croce Rossa è arrivata, anzi le Croci Rosse, dopo 20 giorni di bufera sui mercati finanziari globali che hanno bruciato 6.500 miliardi di dollari di capitalizzazioni, ecco che le banche centrali entrano in campo. Giovedì è stata la BCE a gettare acqua sul fuoco, ad annunciare che già a marzo la sua politica monetaria potrebbe farsi ancora più espansiva. Lo stesso giorno la banca centrale cinese ha iniettato sui mercati l'equivalente di 60,8 miliardi di dollari, record da 3 anni a questa parte. La stessa cosa potrebbe fare la Bank of Japan, mentre alcuni scommettono sul fatto che la Federal Reserve possa addirittura tornare sui suoi passi e rallentare i rialzi dei tassi di interesse che sono partiti a dicembre. Il lupo, parliamo del lupo, perché foto notizia sulla Stampa con la foto del lupo. Alpi, c'è chi vuole la caccia al lupo, 150 gli esemplari sull'arco alpino. Che succede? Che ieri è stato presentato un piano da parte dell'Unione Zoologica Italiana per il Ministero che fa il punto su quanti lupi ci sono in Italia. Tra 1000 e 2000 nell'Appennino, 150 esemplari sulle Alpi, ma è ormai chiaro che questi lupi minacciano i nostri centri abitati in queste zone del nord, sulle Alpi o anche sugli Appennini. Ci sono stati molti casi di assalti a gregge di animali che sono stati sbranati o morti perché scappavano dai lupi, finiti nei dirupi. Nel 2013, solo nella provincia di Cuneo, per esempio, 153 capi risarciti agli allevatori, 81 nel 2014. Pochi dubbi anche sul fatto che in alcune circostanze i lupi si siano avvicinati ai centri abitati, specie la notte, lo testimoniano le immagini di videocamere di sorveglianza. Quindi questo piano dell'Unione Zoologica prevede anche l'abbattimento, apriti cielo, dei lupi. Cosa dobbiamo fare? Le gregge di lupi sono state ripopolate, i branchi di lupi sono stati ripopolati negli anni, un risultato importante per evitarne l'estinzione. Adesso però, se ce ne sono troppi, chiaramente qualcosa bisogna fare. Ci sarà chi protesta, naturalmente gli animalisti, come è successo in Toscana per il piano di abbattimento dei cinghiali, dove c'è un appello di un sacco di intellettuali contro l'abbattimento dei cinghiali. Vorrei vedere se abitassero vicino a un branco di lupi se firmerebbero ancora appelli di questo genere. Ma al di là di questo, sarà interessante capire a chi sarà affidato poi l'abbattimento dei lupi come dei cinghiali, delle agenzie private, perché il corpo forestale non c'è più, è stato smembrato, assorbito nei carabinieri, a meno che non mandiamo i carabinieri a dare la caccia ai lupi e ai cinghiali nei boschi. Direi che è tutto, direi che ci fermiamo qua con la rassegna stampa. Ci risentiamo tra poco con Si può fare, proseguiamo. Apriamo il numero verde 800 24 00 24. A tra poco, quindi, ciao, a dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. funk you up. Uptown funk you up. Cause Uptown funk don't give it to you. Cause Uptown funk don't give it to you. Don't believe me, just watch. Buongiorno cari ascoltatori, eccoci qua, buongiorno da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Allora, 800 24 00 24, vi aspettiamo numerosi per chiacchierare con noi, per commentare quello che sentite, per intervenire in diretta fino alle 10. Oggi Milano-Monterosa? Oggi Milano-Monterosa si attende il sole, anche perché oggi è giornata di manifestazione, quindi Milano-Monterosa abbastanza bello. Ciò che è stato veramente brutto stanotte è stato vedere il pirellone illuminato con su scritto Family Day, e lo dico molto chiaramente perché trovo che la Regione Lombardia come istituzione non ha senso che partecipi, che appoggi il Family Day in maniera così aperta, quando nemmeno il Papa appoggia così tanto il Family Day, e non sarà in piazza infatti il Papa. E quindi che la mia regione, della quale faccio parte anch'io, sarebbe clamoroso, e mi sembra assurdo. Poi personalmente Ciro Marone può avere tutte le idee che vuole, ci mancherebbe altro. Stanotte il pirellone si è illuminato, hanno di una lasciato scritta... accese, non credo per sbaglio, esattamente le finestre che poi componevano la scritta Family Day. Lo fanno spesso, ci mancherebbe altro. Questa volta Family Day. In più trovo pazzesco che sia stato acceso ieri, diciamo volutamente, volendo alzare l'asticella dello scontro, visto che oggi ci sono in piazza tutte le associazioni LGBT e non solo, e Amnesty e un sacco di altre associazioni in difesa dei diritti civili e della legge sulle unioni civili, di accenderlo ieri un po' come sberleffo una settimana prima del Family Day, che invece ricordiamo è il 30 di gennaio a Roma. Invece oggi si manifesta con Svegliati Italia in più di 100 piazze. Pensa che se sbagliavano soltanto la prima lettera poteva venire fuori il titolo sogno, del manifesto Family Gay. Esatto. Sarebbe stata tutta un'altra cosa. Vabbè, insomma, ne parleremo tra poco. Tra l'altro, incontrando un personaggio molto si può fare, un sindaco campano del napoletano dichiaratamente gay, uno dei pochi al sud Italia ad essere o ad avere un ruolo pubblico ed essere dichiaratamente gay. Ne parleremo con lui e poi parleremo insomma di tante altre cose, per esempio della storia incredibile che scuote Genova in queste ore, ed è i lavori per la realizzazione del canale del Fereggiano, quel torrente che ogni anno esonda e in alcuni casi ha provocato anche diverse vittime, ma c'è un ricorso da parte di alcuni abitanti di Genova che rischia, un ricorso al TAR che rischia di impedire questa opera in qualche modo, e insomma siamo un po' preoccupati, andremo a vedere che cosa sta succedendo. 800 24 00 24. Poi però il gioco, perché insomma è venuta fuori questa notizia, che è una notizia un po' social, è uscita sul Corriere, su altri giornali, poi è stata molto appunto sui social, su Facebook, su Twitter. Il ristorante di Roma che vietato ai bambini, che praticamente c'è un ristoratore a Roma che ha messo un cartello: divieto di ingresso, presenza non gradita ai minori di 5 anni, nonché l'ingresso di passeggini e seggiolini per motivi di spazio. Siamo certi della vostra comprensione, ma insomma, a causa della cattiva educazione dei genitori di questi bambini, insomma, questo ristorante non vuole più bambini, cioè apriti cielo. Certo, ma ho letto che in realtà, paradossalmente, hanno avuto anche un aumento dei clienti, perché ci sono molti clienti, o insomma sufficienti clienti, che trovano fastidioso mangiare vicino a bambini troppo piccoli, che secondo loro danno fastidio. Ora, la cosa, insomma, a parte che si può discutere, perché in effetti a chi non è capitato di essere infastidito magari qualche volta? Ma a me il ristorante in realtà ci ho pensato, a me diverto, no? E non ho proprio nessunissimo problema. Ma posso capire magari uno in un viaggio in aereo 14 ore di fiera, a parte che comunque non è che si può vietare ai bambini di volare. Io forse posso essere quello che infastidisce, perché ho due bambine piccole adesso, però non ricordo sinceramente che mi sia capitato. Ma al di là di questo, noi vogliamo rigirarla così e chiedergli: ma siamo proprio sicuri che dobbiamo diventare un posto, un paese di intolleranti anche da questo punto di vista, e che i bambini siano solo portatori di rotture di scatole? Sì, è vero, a volte ti fanno fare anche delle figuracce, no? Però sono cose belle da ricordarsi, da raccontare. Per esempio, le figuracce ai bambini sono la cosa più bella di sempre. Bella. Cioè, per esempio, la nostra Claudia Schiattone ha raccontato una ieri subito, che si è meritata di entrare subito nella top 10. quindi partecipa, partecipa all'estrazione dei nostri biglietti. Esatto, se volete vincere all'800 24 00 24 dovete chiamare e raccontare qualcosa di più divertente. Lei praticamente era piccolina, era con sua mamma che stava parlando con una persona, non so se era una zia, può darsi che fosse comunque una conoscente di famiglia. Lei ha giunto e ha detto: mamma, ma perché stai a perdere tempo con questa pettegola? Andiamocene. Già è bellissimo una bimba che dica pettegola, quindi è proprio perfetto. Questo, dai, momenti di vita con i bambini che diano fastidio o no. 800 24 0024, vi aspettiamo. Posso leggere un sms brevissimo? Sì. Ristorante a Pordenone, cartello appeso: i bambini incustoditi verranno venduti come schiavi. Ci manda un messaggino, ovviamente è ironico. Viene un sms al 349-238-6666. Potete mandarci i vostri sms. È palese a tutti, è una pura ovvietà. Inutile negarlo, lo sa anche il tuo papà. Danzi in cameretta con la tua manina al vento. L'ho capito al volo, mi è bastato un momento. Da grande sarei frocio, oh oh oh. Da grande sarei frocio, oh oh oh. E non è un reato, oh oh oh. Niente di sbagliato, oh oh oh. Stirato e perfetto. Ti starai domandando: ma cosa stiamo ascoltando? No, perché la conosco benissimo, è Manuel Castro. Manuel Castro, questo eccentrico artista che scrive canzoni e fa tante altre cose originali, molto originali. Allora, ce l'abbiamo? Ce l'abbiamo Giorgio Zinno, sindaco di San Giorgio a Cremano? Buongiorno. Ce l'avete. Eccolo buongiorno qua. Buongiorno sindaco. Io l'ho già annunciato, da pochi mesi sindaco di San Giorgio a Cremano. Da quanto tempo? Da sei mesi. 31 maggio. Da pochi mesi, ed è uno dei, forse il primo sindaco in tutta la Campania ad essersi dichiarato gay. Da sindaco, da quando ho 20 anni, sì, quindi sì. Un po' più giovane, però, giustamente. Sì. È una dichiarata di una missione che è stata fatta prima, però insomma magari può capitare anche che invece non si dica. Lei invece ne ha fatto in qualche modo anche un po' una sua bandiera. E noi sappiamo, tra l'altro, quanto la Campania e Napoli possano essere, come dire, maciste, omofobe. Ne abbiamo avuto una rappresentazione qualche giorno fa, sto scherzando, ma mi riferisco alle frasi di Sarri, l'allenatore del Napoli, le famose frasi omofobe. È difficile fare il sindaco gay in Campania? Guardi, no, io tra l'altro non è una mia bandiera, diciamo, io ho fatto 8 anni di vice sindaco e già era ben conosciuta la cosa. Quindi sono stato eletto sindaco da persona ormai normalissima come tutti gli altri, che però non ha mai nascosto la sua omosessualità. Non è difficile fare il sindaco in Campania omosessuale, è difficile fare il sindaco ovviamente. Prima parlavate del TAR a Genova, è difficilissimo fare il sindaco perché ci sono leggi e normative che ovviamente impongono determinate difficoltà, diminuzioni dei trasferimenti, tutti i temi che in qualche modo non solo in Campania, in tutta Italia, ma in posti difficili lo fa diventare un po' più difficile. Come omosessuale non penso di avere nessun problema rispetto a fare il sindaco. I cittadini mi hanno eletto il 60%, quindi penso che non ci sia nessuna difficoltà in tal senso. Ecco, ovviamente. Però forse per le coppie omosessuali qualche difficoltà in Italia c'è. Sì. Oggi ci sono manifestazioni, non so se ci sarà qualche cosa anche lì da voi. Sì, sì. A Napoli. Alle 16:30 concentramento da Piazza Maggi. Sì. Perché si manifesta oggi? Lei manifesterà? Sì, sarò in piazza come sono sempre stato in piazza in questi eventi, voglio dire. È giusto, sarò in piazza anche con molti amici che parteciperanno da San Giorgio a Cremano. Tra l'altro San Giorgio a Cremano è a 6 chilometri dal centro di Napoli, quindi voglio dire, sarà per noi anche molto facile, ma penso che verranno molte persone dalla regione Campania, perché il concentramento napoletano, cioè il concentramento della regione Campania è a Napoli questa volta. E quindi, poi di solito le manifestazioni a Napoli sono Molto, molto grandi e molto belle. Sono stato testimone del Gay Pride di Napoli, tra l'altro insieme a Emanuele Castro, che abbiamo fatto sentire prima. Sì, sì, ero vicino a voi, noi ci siamo sentiti con Radio CRC il giorno stesso e sì, è stata una bellissima esperienza l'ultimo Gay Pride, perché c'era una grandissima partecipazione. Spero che anche questa volta ci sia una grande partecipazione, perché è ovvio, sono 100 piazze in Italia, noi non abbiamo i finanziamenti che ovviamente saranno messi in campo per il Family Day, ma giusto, penso ricordarlo. Che sui territori, sì, la scelta dei territori è non solo di appropriarsi di tutti i luoghi e non di un unico luogo come a Roma, perché le unioni civili sono un problema di tutti i singoli cittadini d'Italia. Ecco, sindaco, mi dà un buon motivo perché si debbano fare le unioni civili, perché oggi si debba manifestare su questo tema di cui in Italia si discute da anni, forse a un certo punto anche con un po' di stanchezza, perché se ne parla da tanto, ma poi questa legge che dovrebbe equiparare l'Italia, tra l'altro, anche io l'ho letto prima, a quasi tutti i paesi europei sostanzialmente, già questo potrebbe essere un buon motivo. Me ne dà un altro? Il motivo è democrazia e uguaglianza. Se noi siamo tutti uguali davanti alla legge, lo siamo anche nei diritti e nei doveri, ovviamente. Io devo avere il diritto di potermi unire in matrimonio, in unione con il mio compagno, e poter avere gli stessi diritti sul futuro e anche sul presente, ovviamente. Questo penso sia l'unico e il fondamentale diritto, che poi è un diritto all'amore, il diritto a poter condurre una vita in pienezza, e pienezza anche del diritto, non solo dell'amore. Oggi è negata a una parte dei cittadini d'Italia, penso che l'uguaglianza voglia anche questo, sì. Senta, della retratezza che noi ormai abbiamo. Molte critiche, alcune delle critiche si concentrano, a parte chi è contrario, diciamo a prescindere, forse da un punto di vista più generale al riconoscimento di queste unioni civili, ma una parte delle critiche si concentra sul tema delle adozioni, cioè la possibilità di adottare il figlio naturale di uno dei due partner, la cosiddetta stepchild adoption. Senza questa parte andrebbe bene comunque una legge che forse potrebbe passare più facilmente al Parlamento? Guardi, io comprendo chi da posizione omofobe o non omofobe critica questa parte. È ovvio che sarebbe molto più semplice e probabilmente andrebbe molto più veloce, però probabilmente siamo davanti alla possibilità questa volta di far passare una legge integrata e non aspettare i cosiddetti due tempi. Probabilmente anni fa anche io ero uno di quelli che diceva facciamo i due tempi, aspettiamo almeno una prima parte di diritti e poi si lavora su quella che è la conoscenza ovviamente del tema e anche diciamo l'abbattimento di certe barriere per arrivare al secondo tempo. Oggi probabilmente siamo davanti alla possibilità di farlo in un unico tempo e secondo me l'italiano medio è più maturo dei parlamentari e dei senatori, quindi secondo me si può. E soprattutto ricordiamo che si tratta soprattutto di occuparsi di bambini che già esistono, già sono nati, già sono in Italia, già vanno nelle nostre scuole, quindi diventa un po' difficile negare loro un diritto che hanno gli stessi bambini se provengono da coppie eterosessuali. Le volevo chiedere anche una cosa, abbiamo aperto dando la notizia del Pirellone che stanotte ha scritto la Family sede Day, della regione Lombardia, sede, diciamo, chi magari esatto, non lo sa. La sede della regione Lombardia, quindi mi chiedevo da politico, da sindaco, se le sembra possibile che un'istituzione come la regione Lombardia appoggi apertamente, ufficialmente, istituzionalmente il Family Day. No, guardi, io penso che sia totalmente errato. Io andrò in piazza senza fascia, senza stendardo del comune, ci vado certo, da cittadino, non ci vado da sindaco della città. È ovvio che le due cose in me sono unite, ma io ci vado da cittadino all'iniziativa. Non ho fatto un'adesione formale dell'amministrazione a un'iniziativa. Ma forse non si può proprio, o sbaglio? Nel senso che potrebbe un'amministrazione... Tecnicamente siamo su quel borderline che può permetterlo o non permetterlo, ma penso che se io sono il sindaco di 47.000 cittadini non posso permettermi di scegliere rispetto a temi del genere la posizione di un comune, di un'istituzione. Io scelgo la mia, scelgo quella che cerco di far sì che sia maggioranza all'interno della mia città, all'interno di dell'Italia. La scelta sta al Parlamento in questo momento e speriamo, anzi confidiamo, che anche manifestazioni del genere possano dare una mano al raggiungimento dell'obiettivo. Certo. Senta, mi fa tornare un attimo però alle frasi dell'allenatore del Napoli, visto che lei insomma è napoletano. Ti fa Napoli? Immagino. Moderatamente, ecco. Napoli. Moderatamente. Dopo le frasi di Sarri contro Mancini, lo ti fa un po' meno da persona gay, no, oppure no, si è fatto un polverone per nulla? No, l'ho detto dall'inizio e devo dire la verità, le ultime cose che sento mi hanno dato ragione. Ovviamente non le conoscevo, ma mi hanno dato ragione. Ho ritenuto subito che le frasi di Sarri, se anche da stigmatizzare, da condannare, fanno parte di un mondo del calcio un po' perverso, dove l'offesa è per 90 minuti la cosa più facile che ci possa essere in campo. Da qua a far diventare Sarri un omofobo per una parola del genere, penso ce ne passi. C'è stata una grande strumentalizzazione della questione. E poi, come ho detto, non ci può essere persone che si scandalizzano un giorno sì e l'altro no. O da quel giorno cambia il calcio e realmente noi abbiamo che sul calcio non si fanno più, non si pronunciano più epiteti del genere. Beh, non sarebbe comunque malaccio, eh? No, sarebbe una cosa malaccio da festeggiare. Io dico, sì, io dico che sarebbe tutti la cosa insulti, più bella, sì, ma se Mancini, voglio dire, nota persona non che ha studiato alle suore orsoline, fa una cosa del genere, la vedo una strumentalizzazione. Se invece il mondo del calcio vuole cambiare, bene, diamogli una mano, però da qua a dire che una persona omofoba per una parola in un momento di concitazione e di rabbia detta, vorrei aspettare prima di alzare il forcone. Può essere pure Sarri, non so se è una persona omofoba o meno, non mi sembra proprio, anche perché incontrerà l'arcigay di Napoli, ho sentito Antonio Sannini, il segretario provinciale dell'arcigay, anzi presidente dell'arcigay, e mi ha detto che si incontreranno, non oggi perché il Napoli sarà a Genova proprio, sì, per la partita di domani, ma si incontreranno e quindi si sono anche sentiti, quindi secondo me non c'è niente di omofobo, c'è soltanto un polverone mediatico. Sì, va ricordato che c'è anche un problema direi culturale, perché anch'io non penso che sia la questione dell'omofobia di Sarri. Io personalmente non penso che se qualcuno mi dà del frocio debba andare in galera, non lo penso minimamente, anche perché è lo Stato stesso che è il primo omofobo di questo paese e comunque ha sancito che io sono un cittadino di serie B. Aggiungo però solamente che la cosa problematica mi sembra culturale, in quanto dare a qualcuno dell'omosessuale in teoria non è un insulto, e questo va ricordato, perché io penso semplicemente a tutti i ragazzi e le ragazze che magari quel giorno erano davanti alla televisione e avevano deciso anche di fare coming out in famiglia, che quando vedono l'allenatore della squadra prima in classifica, il Napoli, che dice come massimo insulto nel momento di massima rabbia, l'insulto più terribile che gli viene in mente è frocio, secondo me questi ragazzi e queste ragazze si sono detti non oggi, non qui, non in questo mondo faccio coming out, e questo mi spiace. Carlo, io vorrei dire una cosa, non penso che abbia detto solo quello. Quello è quello che Mancini ha riportato, non penso che abbia detto solo quell'insulto. Mancini ha strumentalizzato quell'insulto, ma ne avrà detto. Io penso che purtroppo le madri, i padri, quando scendono in campo i calciatori tremano per quello che possa essere detto di loro in campo, come tanti altri soggetti. Mancini ha utilizzato quello e secondo me è stato proprio lui a creare questo problema. Ma sulla strumentalizzazione sono d'accordo. Anzi, guardi, aggiungo anche una cosa. Personalmente non darei nessunissima giornata di punizione a Sarri, gli darei un'altra punizione, l'obbligherei a fare un bel video dove dice che essere gay va benissimo, che nessuno verrà giudicato mai per il proprio orientamento sessuale e che è bellissimo. Esatto, perfetto. Andare dal presidente dell'arcigay e incontrarsi penso sia un gesto che dà ancora molto di più di un giusto, video molto giusto. In tal senso, quindi io mi auguro, voglio dire, che su questo saremo tutti d'accordo. Molte volte anche persone omosessuali utilizzano termini spessissimo del genere, spessissimo di rabbia, e faccio coming out su questo probabilmente pure io con qualche amico scherzando, ho in qualche modo utilizzato termini del genere. Bravo, mi piace la sincerità e su questo la saggezza, vorrei dire la pacatezza del sindaco Giorgio Zino di San Giorgio a Cremano, che insomma su questo aspetto almeno della vicenda getta acqua sul fuoco. Invece oggi tutti in piazza a sostenere le unioni civili. Esatto, ricordiamo a Sarri che è a Genova per la partita, che comunque c'è la manifestazione anche a Genova. Va bene, grazie sindaco, buona giornata. Grazie a voi, buona grazie giornata. Mille sindaco. Adesso. E soprattutto mi piace anche questa distinzione che il sindaco di San Giorgio a Cremano ha fatto. Io andrò in piazza perché penso che le unioni civili siano una legge sacrosanta, parole del sindaco, però non ci vado con il tricolore, non ci vado con il gonfalone, e quindi diciamo le istituzioni restino un po' fuori da questa vicenda. Perché non posso obbligare tutti i miei 47.000 cittadini ad essere per forza in piazza e ad appoggiare le unioni civili. 800 24 00 24, ci fermiamo, torniamo tra... Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua di nuovo, buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno. Allora, cari ascoltatori, noi oggi vi chiediamo, partendo dall'episodio che si è diffuso sui social network di questo ristorante a Roma che ha vietato l'ingresso ai bambini minori di 5 anni per evitare schiamazzi, raccontarci invece le cose divertenti o che voi avete imparato proprio dai bambini, aneddoti che sono momenti di vita anche divertenti, che vengono dai bambini proprio. 800 24 00 24, quelli vostri ma anche quelli degli altri, va bene lo stesso. Alessandro da Firenze, buongiorno. Ciao, buongiorno. Buongiorno. Ciao. Allora, la bambina, riguarda la mia bambina. Sì. Siamo andati una sera, gli abbiamo detto andiamo a mangiare la pizza, pizzeria buona qui a Firenze dove noi viviamo. Arriviamo, è chiusa, va bene, ne vediamo qualche insegna lì vicino, andiamo, entriamo e il cameriere, insomma il signore, ci viene incontro e gli fa alla bambina: ti piace la pizza, la vuoi, insomma la vuoi la pizza, come la vuoi? Lei gli risponde molto in modo innocente, come sanno tutti loro: sì, siamo venuti qui perché lì dove la fanno buona era chiusa. Se no da voi non venivamo. È la sincerità dei bambini. Vabbè, piccola figura, insomma, niente di grave. Ma vi hanno fatto entrare poi al ristorante? O a quel punto hanno detto allora arrivederci? No. Comunque, sì, al lato di tutto quello di un po' di questo, sì, dibattito. Io tanti anni vado con i figli e nessuno ti ha mai detto nulla. No, mi sono sempre trovato. Ma io infatti, Alessandro, grazie per averci chiamato. Devo dire, ma io tutti questi episodi di schiamazzi dei bambini non li ricordo. Vabbè, io ne posso raccontare una che mia figlia, che riguarda proprio la pizzeria. Noi andiamo in questa pizzeria e il pizzaiolo la prima volta gli ha regalato un pezzo di pasta con cui Viola si diverte a fare anche lei la pizza. E questa cosa ormai è diventata un'abitudine. Tutte le volte che andiamo lei la chiede, loro gliela danno, solo che lei dissemina questi pezzettini, li appiccica a tutte le parti. Io penso ai camerieri a fine cena che poi devono passare a togliere tutti i pezzettini appiccicati sulla sedia e forse qualche maledizione ce la mandano. La prossima volta le porteranno un brodo. Cristina da Prato, buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Eccola qua. Su cosa volevi intervenire? Allora, io sono sempre stata con i miei genitori ovunque, mi hanno sempre portato ovunque, fin, sì, da piccola. Avrò avuto 2 anni e mezzo, siamo andati a vedere una rivista a quei tempi al Teatro Verdi a Firenze, passerella finale, Carlo D'Apporto che passa sulla passerella. Come no, grandissimo Carlo D'Apporto, certo. E io di fondo dal mio posto gli fo: attento, attento, tu cacchi! Perché avevo paura che cadesse. E lui si fermò e mi disse: no amore, io sono abituato, non casco. Io penso ai miei genitori quella volta, sono sbiancati, lì, sono sotterrati. Sotterrati, sì. Vabbè, ma anche questa era, cioè, divertente più che altro. Va bene. Beh, poteva anche dire qualcosa di peggio, insomma, che lo so. Poi ha salvato la vita Massimo D'Apporto, direi. Sì. Massimo Carlo, il padre era... Perché io ho 55 anni. Era il padre di Massimo D'Apporto, quindi. Era il padre di Massimo D'Apporto, certo, sì. Grandissimo attore di teatro, in parte anche somigliante a Massimo. Grazie Cristina. Grazie. 800 24 00 24, ne aspettiamo ancora di racconti sulle figuracce, ma anche cose divertenti che vi hanno fatto fare i vostri bambini, ma anche quelli degli altri. Ci risentiamo tra un attimo dopo il traffico. si può fare. Cronache da un paese migliore. Questi Vallanzasca, Eco Mostro, vi ricordo tra l'altro che tutte le nostre scelte musicali le ritrovate sul sito di Radio 24, la pagina di Si Può Fare, e ogni puntata viene pubblicata anche la nostra playlist. Parliamo di un Eco Mostro particolare, è una struttura temporanea in realtà a Genova che serve per coprire il cantiere per la realizzazione di un canale, il canale del Fereggiano, il fiume, il torrente che esonda, e ogni volta che esonda allaga la città e ci sono state anche molte vittime. Finalmente sono partiti i lavori per la realizzazione di questo canale, però per tenere in sicurezza la zona è stato creato una sorta di gabbia di cemento. Contro questa cosa è stato fatto un ricorso al TAR che rischia paradossalmente di bloccare i lavori. I giornali hanno titolato la guerra tra 9 VIP e il resto di Genova, perché il ricorso lo fanno alcuni abitanti di questo quartiere dove c'è un belvedere rovinato da questa struttura di cemento. Oppure questo ecomostro. Lotta di classe sul canale anti-alluvione. È con noi Alice Salvatore, portavoce del Movimento 5 Stelle in Liguria. Buongiorno. Buongiorno. Allora, abbiamo chiamato lei perché vi siete schierati al fianco di questi cittadini ricorrenti. Ora, io faccio una premessa. So che voi avete detto in tutte le salse non siamo contro l'opera, non siamo contro questo canale, sarebbe da pazzi, credo, esserlo, ma contro che cosa siete allora? Perché appoggiate questo ricorso? Perché finisco la mia brevissima premessa: in passato alcuni ricorsi proprio al TAR hanno bloccato i lavori, altri lavori che dovevano essere fatti per mettere in sicurezza. La paura è che si blocchi di nuovo tutto. Beh, sfatiamo anche questo mito, perché nel caso del ricorso specifico non c'è nessun rischio che venga bloccato il cantiere, infatti si tratta semplicemente della copertura di questo cantiere che è sorta misteriosamente nottetempo senza che il comune, senza che il sindaco informasse i cittadini. E l'interesse paesaggistico riguarda tutta la città di Genova, in quanto Corso Italia è l'ultima passeggiata a mare del centro città. Quindi ribadiamo che nessuno si è schierato anzitutto dalla parte di nessun ricorrente, ma semplicemente è stato messo l'indice contro il Partito Democratico, che sta cavalcando una battaglia inesistente mettendo contro cittadini da una parte e cittadini dall'altra. Allora, però non scusi, non ci sono dei cittadini, ci sono dei cittadini che hanno fatto ricorso, 9 risulta. Tra l'altro noi ne abbiamo chiamati alcuni, uno in particolare che ha detto che il ricorso l'ha ritirato e sa che anche altri. Quindi siamo 8. Perché sì. in questo paese se qualcuno ricorre alla giustizia ed esercita i suoi sacrosanti diritti viene stigmatizzato e intimidito, con la complicità a volte dei media addirittura. Allora, però mi spiega, scusi, questione. Qual è il diritto in questo caso? Lei ha detto non vi siete schierati con i ricorrenti, però avete sostenuto che questa opera in qualche modo sia sbagliata. Noi abbiamo semplicemente ribadito che è legittimo che i cittadini, ovunque essi siano, hanno il pieno diritto di esercitare il loro diritto, appunto, di contestare un'opera che è spropositata. Ma questo ci mancherebbe altro. Ma oltretutto ci sono parecchi punti oscuri, perché lei diceva che è provvisoria quest'opera. No, non c'è nessuna garanzia sulla provvisorietà di questo ecomostro di cemento che deturpa la passeggiata a mare di Genova. Ma non è la copertura del cantiere? Sì, certamente. E quindi finito il cantiere torneranno alla copertura. Poi smantellato perché... ci sono dei costi da sostenere per poi smantellare questo mostro, e inoltre ci viene detto, la bella favola, che sopra all'ecomostro verrebbero realizzate delle terrazze con dei campi di volleyball, con dei bar, eccetera. Tutto questo è falso, quindi perché è inammissibile per legge che al di sopra di un cantiere vengano costruite, certo, qualsivoglia strutture, sì, turistiche o di accoglienza per questo i cittadini. È possibile, cioè voi temete che, come succede a volte in Italia, da temporanea la cosa possa diventare definitiva. Però io, certamente, questo è un timore, è un timore che ci può stare. Però finito il cantiere, voi questi cittadini faranno il loro ricorso e faranno buttare giù. Ricordiamo che il cantiere dovrebbe durare 3 anni, quindi non è una roba che dà poco fastidio, giusto per intenderci, perché sennò uno pensa, vabbè, il cantiere è di 2 mesi. Però da quello che ho capito, loro dicono dopo il cantiere, fra 3 anni, nel 2018. Sì, ma al centro dell'attenzione dovrebbe esserci il sindaco Doria e la sua giunta, che dovrebbero dare semplicemente garanzia alla città di Genova che ovviamente questa copertura orripilante verrebbe poi rimossa. Ma la cosa più però scusi, mi fa fare una domanda, posso fare chiaramente una domanda, mi scusi, che è questa, che è un po' sotto traccia quello che stiamo dicendo. Non pensa che ragioni paesaggistiche o estetiche o di altro tipo debbano passare in secondo piano rispetto al dramma delle alluvioni, alla perdita di vite umane che c'è stato in passato? Lei continua a contrapporre la copertura in cemento con la realizzazione del cantiere del sfalmatore del Ferreggiano. Le ho già detto che non c'è nessun conflitto, cioè se vincessero i ricorrenti al TAR. Sì, però scusi, questo lo dice lei, se è stata fatta questa copertura di questo cantiere ci sarà un motivo, non so se si sono divertiti. Se le dico che non verrebbe bloccato, sì, il cantiere, perché continua a sostenere il contrario? Non verrebbe bloccato il cantiere, verrebbe semplicemente smantellata la copertura, che è un'opera aggiuntiva. E i lavori, non c'è nessun rischio. Perfetto. E come farebbero a fare i lavori se loro dicono... Se tutti i cittadini reagissero con la stessa prontezza di fronte a qualsiasi sopruso o cementificazione, noi non avremmo oggi il problema per cui ci troviamo a dover costruire lo scolmatore del Ferreggiano. E qui bisogna, perché il problema per cui c'è bisogno dello scolmatore è tutta la cementificazione che è stata operata in tutti questi anni a Genova, lungo la Val Bisagno e lungo tutte le terre che vengono attraversate dai nostri corsi d'acqua. Ma il vero problema è che i cittadini genovesi, i cittadini del Ferreggiano, i cittadini del Val Bisagno, che noi da sempre difendiamo a spada tratta, non dovrebbero accontentarsi di avere realizzato forse, chissà, perché sappiamo come finiscono le opere pubbliche, tra qualche anno un'opera che mette solo parzialmente in sicurezza la Val Bisagno. Invece noi insistiamo e chiediamo che oltre allo scolmatore, insieme allo scolmatore, sì, vengano attuate tutte quelle opere di manutenzione e prevenzione nell'entroterra, a monte, per ritardare il flusso dei corsi d'acqua, cioè prolungarlo attraverso anche delle deviazioni, oppure rallentare la portata, la velocità di portata dell'acqua che provoca poi la bomba d'acqua quando arriva a valle. Certo, Va curato a monte. Sì, e non solo. Mi scusi, però le devo fare una domanda. Le devo fare una domanda. Va bene. È importantissimo. Abbiamo sentito tutto la questione dello scolmatore. Le devo fare una domanda. Dobbiamo capire. Mi scusi. No, non vuole il consigliere 5 Stelle. Non vuole rispondere alle domande. Non vuole ricevere. No, non può andare avanti perché abbiamo finito il tempo. Il consigliere non vuole ricevere le domande, evidentemente, perché continua a parlare e non ci fa fare la domanda. Molto bene. Siccome purtroppo è finito il tempo, io devo salutarla, Alice Salvatore, portavoce, scusate, del Movimento 5 Stelle in Liguria. Grazie per essere stata con noi. Ha comunque spiegato il suo punto di vista. Non siamo riusciti molto a portavoce, ma non ascolta, diciamo, la porta. Sì, la porta la sola. Porta. Vabbè. No, ero curioso di capire come mai questi, se non serve a niente questa copertura, come mai? Cioè, loro fanno tutti i lavori, li fanno comunque, la copertura è in più e volevo semplicemente capirlo. Infatti, hai ragione. 800 24 00 24, cari ascoltatori. Ascoltatori, anche su questo, se volete intervenire, ci risentiamo dopo il GR. A dopo. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Give me your attention, baby. I gotta tell you a little something about yourself. You're one of our flawless, ooh, you a sexy lady. But you walk around here like you wanna be someone else. Ooh, I know that you don't know it, but you're fine, so fine. Fine, so fine. Ooh, oh, girl, I'm gonna show you when you're mine. Allora, ne abbiamo parlato anche sabato scorso, oggi andiamo più nello specifico. Il record di turisti nei musei italiani, nei luoghi da visitare, è stato un anno record, 2015, a Pompei in particolare, più 12%, quasi 3 milioni di visitatori. Saranno le mode che vanno e vengono, caro Carlo, come ha detto Filippo Daverio, ti ricordi? Certo. Ha parlato un po' anche di questo. Oppure sarà che Pompei sta conquistando, riconquistando un posto di rango a livello internazionale, perché i lavori di messa in sicurezza sono stati fatti, perché migliora la gestione del turismo, eccetera, forse, eccetera. Forse anche più banalmente, l'importante è che se ne parli, come si diceva, nel senso che comunque negli ultimi anni di Pompei se ne è parlato tantissimo, spesso per purtroppo notizie terribili, esatto, gravi, di crolli. Esatto. Però comunque se ne è parlato. Adesso... e forse molti si sono anche accorti dicendo, ma in effetti abbiamo... Cioè non vorrei che la gente andasse a vedere Pompei, no, perché dice chissà per quanto c'è poi ancora. Non ci sarà più. Invece adesso se ne parla, ma per cose positive, credo, crediamo, speriamo, noi ci vogliamo credere. Con noi sovrintendente Massimo Sanna, buongiorno. Buongiorno. Ben ritrovato. Allora, noi ci vogliamo credere, ho detto, no? Intanto... Per fortuna, quindi un po' di fiducia. Sì. Assolutamente noi sì. Noi siamo quelli non che non volevo ce essere la disfattista, noi dicevo che quelli... anche quello potrebbe aver portato nuovi, no, turisti. Sentivo le sì. motivazioni, io credo che siano tutte vere. Sì. Effetto, c'è l'effetto, parliamone, oppure stiamo parlando tanto, allora la curiosità. C'è l'effetto, appunto... restauri e soprattutto ma anche nuova attenzione alla fruizione, per esempio le mostre che abbiamo fatto, sì, quella sui calchi nella piramide anfiteatro ha avuto un grandissimo successo, quindi sono tutta una serie di fattori che hanno contribuito a questo successo del 2015. Tra l'altro, a proposito dei fattori, uno è un po' che non ci sono, adesso sono ammessi tutti gli scongiuri del caso, che esatto, non ci sono, esatto, non ci sono crolli, da quanto tempo? Spegniamo la webcam perché stiamo facendo degli scongiuri a tutti questo anche io. Guardi anche dall'inizio dell'anno scorso, ma il problema è che adesso con le messe in sicurezza, diciamo, il rischio diminuisce, ma questo non vuol dire che non ce ne potrebbero essere, sempre facendo scongiuri, nel senso che la messa in sicurezza del 100% noi con i lavori in corso la prevediamo per la metà del 2017, sì, cioè una metà, abbiamo finito una metà, cioè le regioni 6, 7, 8 che sono regioni molto importanti, tra l'altro le prime scavate fra 700 e 800, quindi con problemi anche di esposizione alle intemperie secolari, e quindi questa parte è adesso a posto, poi resta soprattutto la regione prima, i cui lavori cominceranno solo all'inizio nei primi mesi di quest'anno, perché siamo a sì. La gara viene finita adesso e che ci vorrà un po' per terminarli. Però, ovviamente per assegnarla. Sì. Sì, lei ci aveva detto l'altra volta che di tutti credo 105 milioni che venivano da sì, in gran parte dall'Europa, se non ricordo male, sì, erano sì, stati cantierati quasi tutti. Mi ricordo lei aveva fatto la cifra 96, sono andata a riguardarmela. Sì, no, adesso veramente abbiamo cantierati 160 milioni perché ecco, abbiamo anche impegnato i ribassi. Ovviamente ogni gara genera dei ribassi, delle economie di gara, e queste noi le abbiamo impegnate su nuovi progetti che non erano nel progetto iniziale. E le faccio un esempio: un progetto strategico che non era previsto all'inizio del grande progetto sì, erano i fonti di scavo, cioè tutta quell'area a confine tra l'area non scavata e area scavata, che dove ci sono 4-5 metri di cumulo di lapillo che spinge con l'acqua, con l'acqua, dentro, con le piogge, e crea tutta una serie di sesti idrogeologici. Per cui un grande progetto è su quello che l'abbiamo fatto e comincia adesso, proprio perché non era previsto all'inizio. I fondi, per quanto riguarda l'utilizzo dei soldi, questi, come dicevo, sono stati impegnati ampiamente al di là di 105. Cantierati vuol dire che sono stati, diciamo, aperti i cantieri o semplicemente, diciamo, definite le gare d'appalto, le procedure burocratiche? Allora, anche i cantieri aperti, non di tutti e 160, e quelli sì. Come dicevo, di 160 una parte, che è quella che è oltre i 105 milioni, sono le gare che stanno finendo, per esempio Fronti di Scavo, come dicevo, le regioni 1, 2 e 3, che è l'ultima messa in sicurezza che resta, però diciamo la gran parte è stato anche cantierato. Ok, senta, e poi c'è la questione dei custodi. Lei anche l'altra volta, sono andata a riguardarmi l'intervista, si lamentava sempre del fatto che c'erano pochi custodi, se non ricordo male. Adesso va un po' meglio, sono sempre adesso pochi? Adesso va meglio perché abbiamo fatto una convenzione con la società in-house del Ministero ADES, con cui abbiamo preso 40 nuove unità di personale, pagato anche questo sul grande progetto, almeno fino a tutto quest'anno, tutto il 2016, poi bisognerà trovare risorse per gli altri. Perché siamo sempre con progetti che durano 6 mesi, un anno, e non si riesce mai a fare una pianificazione? Adesso Pompei rende, no? Perché credo che i dati sui quasi 3 milioni di turisti, quanto avete incassato quindi l'anno scorso? Guardi, circa 28 milioni, rende infatti, però va di bene quei 28 milioni dell'ordinario, visto che c'era il grande progetto, li abbiamo investiti soprattutto nei siti cosiddetti minori, cioè Oplonti, Castellammare di Stabia, Ercolano che adesso tra l'altro presto non sarà più attaccata, legata a Pompei, però perché c'è rientrato nella riforma Franceschini con un direttore a parte, no? Tra i 10 nuovi musei, sì. Sì, sì. Ma va bene questa cosa qua? Dunque, guardi, da un lato va bene, nel senso che io ho avuto molti sensi di colpa l'anno scorso e quest'anno, proprio perché mi sono occupato molto meno di Ercolano rispetto a Pompei, anche perché i problemi sono minori. Lì c'è la Fondazione Packard che si affianca alla sovrintendenza, però è chiaro che con un dirigente proprio preposto può andare meglio come attenzione. Il problema è quello economico, nel senso i costosissimi restauri di Ercolano da un lato sono finanziati da Packard, ma è un cofinanziamento, molta buona parte l'ha messi anche la sovrintendenza e sono soldi che vengono da Pompei. Quindi sopravviverà adesso autonomamente Ercolano? Questo è il La domanda che lei fa. Sì. Ma, staremo a vedere. L'altra questione è quella del sito web che stavate ristrutturando l'altra volta. A parte che qual è il sito web ufficiale di Pompei? Si chiama pompeisite.org, non mi chieda perché l'indirizzo era... L'aspettavamo al varco, Pompei Site, scritto S-I-T-E come sito... Pompei con due i, ites.org. Non è un nome felicissimo, devo dire che se uno cerca Pompei online viene fuori di tutto. Non rispondo di quello che è stato fatto, almeno di quello. No? Però secondo me lei ha il potere di cambiarlo il nome del sito, no? Eh sì, il problema è che tutti i domini più, diciamo... Sono già stati presi. Sono già stati presi. No, infatti in realtà l'ho preso io, volevo venderglielo, è per questo che facevamo questa telefonata. Però glielo vendo a 1,70 euro. Sto scherzando, ovviamente. Sei molto generoso. Se lei mette Pompei, Pompei è il primo che esce. Subito, il primo che esce è Pompei Site. È che sembra il nome di una multinazionale americana, quindi uno di solito non lo apre quello. E invece ricordiamo a tutti che è quello ufficiale. Ha ragione, sì. Adesso comunque vedremo se è possibile trovare un dominio più... Però i contenuti sono stati modificati, come chiedeva in qualche modo anche lei all'interno di questo progetto, o siamo sempre a quelli vecchi? Adesso i contenuti sono attuali, quello che abbiamo rifatto nel grande progetto è il progetto di restyling di tutta del framework rifaremo riconfluire tutta la documentazione, e questo è finito il nuovo sito ed è perché il piano della comunicazione del grande progetto prevedeva il progetto di ristrutturazione del sito. Adesso ce l'abbiamo, il progetto, tutto il piano della comunicazione è finito, dobbiamo mettere a bando il software per creare il nuovo. Insomma, senza andare troppo di corsa, però ci stiamo arrivando. Adesso però facciamo una piccola pausa per il traffico, poi anticipo la domanda sulla questione, la polemica che è scoppiata sulla questione della stazione ferroviaria, perché c'è un progetto per una stazione ad alta velocità a Pompei, qualcuno dice un progetto troppo avveniristico o troppo invasivo, lo dice per esempio il sindaco che non vuole questa stazione, altri dicono ma come, adesso la stazione di Pompei cade a pezzi, la vedono 2 milioni di persone, anzi forse anche di più all'anno, e non è possibile perdere un'occasione così. Ne parliamo tra un attimo dopo il traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, eccoci qua di nuovo insieme a Massimo Sanna, sovrintendente di Pompei. Perché il sindaco della città si oppone alla realizzazione, secondo me in modo un po' incomprensibile, di questa stazione ferroviaria ad alta velocità? E poi lei che ne pensa? Io penso che è una cosa ottima, tra l'altro si riporta la stazione dove era nell'Ottocento, pensi, avevano già previsto tutto, nel senso nell'Ottocento la stazione era fatta davanti agli scavi, molto vicino all'accesso di allora, che è anche vicino all'accesso di oggi, e quindi permetteva ai turisti che venivano in treno di arrivare, di raggiungere facilmente lo scavo. Cioè eravamo più avanti nell'Ottocento di adesso, in qualche modo. Beh, da questo punto di vista sicuro. E poi fu spostata negli anni 50 perché per farlo portarlo più vicino alla città e al santuario sostanzialmente. Ora, il problema il cui appunto il sindaco teneva è che si portasse, riportandoli la stazione, fosse penalizzata il centro moderno e quindi anche l'economia locale. Io credo il contrario. Se fare una bella stazione ci porta l'alta velocità da Roma, si arriva finalmente in maniera agevole, non come un viaggio della speranza. Anche perché io non so quanti visitatori andranno alla Pompei moderna, però se ce ne vanno 3 milioni alla Pompei antica, bisognerà farsene una ragione forse di questo. Parlo al sindaco adesso. Ma io credo che adesso, io ne ho parlato anche con lui non è rigido sul punto, cioè bisogna organizzare bene magari anche con navette che dal sito archeologico portino al posto dove ci sono i ristoranti. Esatto, sì. Ma i ristoranti tra l'altro sono anche l'attorno, questa è un'occasione per riqualificarli tutti e avendo appunto un nuovo accesso dignitoso allo scavo. Credo che si farà. Lei crede che si farà, è ottimista? Sì. Intanto le devo chiedere... Aspetta, mi fai dire un'ultima cosa? Perché qualcuno dice che come soluzione potrebbe essere la stazione di Torre Annunziata, cioè che è vicina a 2 chilometri e potrebbe essere già adatta per l'alta velocità. Lei che ne pensa? Beh, però non è che risolviamo completamente il problema, perché la gente allora arriva lì, poi di lì deve prendere una magari... Un trenino, sì. Suviana, no? Direi che non si risolve né il problema del Pompei sito, né il problema di Pompei città. Si risolve quello di Torre Annunziata forse, ma questa è un'altra cosa. Arrivare a Pompei, perché non è possibile che un sito come Pompei, uno dei più importanti al mondo, se non il più importante, si raggiunga con quella difficoltà che tutti conosciamo. Certo, volevo solamente fare una precisazione, siccome criticavamo il nome in inglese del sito, va anche detto che la maggior parte dei turisti sono stranieri che vanno a Pompei e il sito è interamente anche in inglese, perché di solito capita spesso in Italia che si dà il nome inglese, poi si entra ed è tutto scritto in romanaccio e uno dice perché? Visto che invece facciamo qualcosa di buono? Esatto, no assolutamente, ma io ho estrema fiducia e vi voglio molto bene. Grazie, allora venite a trovarci. Molto volentieri. Vi aspettiamo. Molto volentieri. Cioè io personalmente pensi che, mi dico a bassa voce, io non sono mai stato a Pompei, una cosa gravissima, lo so. Ma c'era Ormai non si può scurare, non si può cancellare quello che è stato detto. Allora, aspettiamo. E chiudo con una battuta, le chiedo se c'è la manifestazione per le unioni civili Svegliati Italia, anche se nel sito di Pompei. Nel sito? Ma se vuole, se pensa sia opportuno, proficuo la facciamo. È opportuno anche perché, come diceva lei, che certe cose funzionavano meglio nell'Ottocento, direi che certe cose funzionavano meglio anche ai tempi antichi. Da questo punto di vista c'era una libertà molto diversa. Totalmente. Senta, però le voglio fare ancora due domande velocissime. Una è, lei aveva un sogno, quello di realizzare a Pompei una scuola di archeologia. Ha fatto passi avanti questo sogno o no? Sì. Adesso attualmente è rimasto ancora sogno, nel senso che è agganciato alla riforma del ministro, che prevede una scuola del patrimonio anche, su cui sta lavorando la direzione che ne ho istituita, formazione e ricerca, e quindi prima si definisce tutto il pacchetto, dopo da questo deriverà anche la scuola. Tutto sommato, anche devo dire la verità, questo ritardo anche meglio, perché la sede a cui avevamo pensato era Reggio di Quisisana di Castellammare di Stabia, tra l'altro una reggia borbonica bellissima, non utilizzata. Lì non ce l'abbiamo ancora in disposizione perché stavamo facendo un accordo con il sindaco che per il comodato, però il sindaco è caduto, no? Adesso c'è un commissario con cui abbiamo ripreso però i lavori per arrivare ad un accordo, quindi questo ritardo tutto sommato non... ci state comunque lavorando, ci state comunque lavorando. Senta, invece un'ultima cosa gliela voglio chiedere così da esperto, noi ci affidiamo, ci siamo un po' documentati, quindi diciamo, non dico che prendiamo per oro colato quello che lei dice, però insomma ci affidiamo molto, ci affidiamo abbastanza. Diciamo la riforma, questa ultima di Franceschini, delle sovrintendenze, c'era bisogno, perché qualcuno dice il poltronificio, di creare, lei prima accennava, no, alla creazione di Ercolano, e così riguarda per altri 10 siti, credo. Cosa ne pensa? Dunque, la riforma nel complesso ci voleva, c'erano ormai delle situazioni che non funzionavano, c'era bisogno di, diciamo, svecchiare tutta la macchina amministrativa. Quindi io non sono contrario all'unione, diciamo, alle sovrintendenze miste. Forse quello che non avrei fatto, ma questo è un mio punto di vista personale, è sganciare i musei archeologici dal territorio, perché laddove le pinacoteche non hanno un rapporto necessariamente diretto con il territorio, i musei archeologici, i piccoli musei archeologici, si alimentano con i materiali che vengono dagli scavi nel territorio, e quindi sganciarli può creare dei problemi. Questo. Così. Sì, sì, sì, religioso silenzio. Cercavo di seguire il filo del ragionamento, che è un po' tecnico, però insomma le stiamo dietro. Comunque il problema, sì, forse sono lì sui miei certi oggi. Poi l'autonomia da alcuni musei dipende anche da come, per esempio, si crea un coordinamento. Per il caso di Ercolano, non perché io sono a Pompei adesso, perché adesso ci sono, domani non ci sono, nel senso come sovrintendente, però un coordinamento sarebbe necessario, sia dal punto di vista scientifico, perché sono due siti così legati che facciano una politica culturale completamente diversa non è proprio opportuno, e anche, come dicevo prima, dal punto di vista economico. Io avrei fatto un bilancio unico e con un dirigente di seconda fascia dedicato a Ercolano. Chiaro. Va bene, insomma, noi in attesa di venire di persona, almeno in visita, certo, Pompei, molto volentieri. Questa è una promessa. Se questa è una promessa. Siamo sempre incuriositi e insomma felici di vedere i progressi che, insomma, speriamo di non essere smentiti, che vengono fatti. E quindi complimenti, andate avanti così e forza, forza Pompei. E allora a presto. A presto. Grazie mille, arrivederci, buona giornata. Try to do what I do, I'm the toughest. I'm the toughest. Stop from doing wrongs, change your foolish plans. Stop from doing wrongs, live up like a man. I'm the toughest. I'm the toughest. Questa è Si può fare, questa che abbiamo appena ascoltato è I'm the toughest di Peter Tosh. Vi ricordiamo che noi stiamo sempre cercando dei Si può fare in musica. Questa canzone ci è stata segnalata da Marcello su Facebook. Vi ricordiamo che potete sempre segnalarci dei vostri Si può fare in musica, sia che voi siate dei musicisti, dei cantanti o anche semplicemente degli ascoltatori, e trovate in una canzone che venga ben spiegato il concetto di Si può fare. Ce la potete segnalare sui nostri account social, quindi su Facebook Si può fare -radio24, oppure su il nostro account Twitter Si può fare 24, oppure sui nostri account personali. Il mio è @ Carlo Gabardini e anche il mio è @ Ale Maurizi. Allora, cosa facciamo adesso? Parliamo. Devo dire una cosa sempre a un ascoltatore che giustamente ci manda una foto su Twitter, la foto della Casa Bianca con i colori della bandiera Rainbow, e di fianco la foto del Pirellone con su scritto Family Day. E Massimiliano Perri, che ringrazio per questo tweet in realtà, e ci chiede: non capisco la differenza. Siccome all'inizio ho criticato il fatto che la Regione Lombardia come istituzione decida di stare dalla parte del Family Day, spiego qual è la differenza. La Casa Bianca si tinse di bandiera con i colori della bandiera Rainbow quando la Corte Suprema scelse e emise una sentenza in cui si diceva che le nozze gay erano un diritto costituzionale. Questa cosa è stata scritta nella Costituzione. A legge fatta, Obama decide di festeggiare una legge che è una legge per tutto lo Stato dando i colori della bandiera rainbow alla Casa Bianca. Ben diverso è in un momento in cui la legge si sta discutendo, un palazzo come la regione, un'intera regione, o è anche la regione più popolosa d'Italia con 9 milioni di abitanti, che sì, decide di interferire in una decisione. Se Obama avesse deciso di interferire con la Corte Suprema, in questo chiaro momento non sarebbe presidente degli Stati Uniti. Allora, invece c'è un altro ascoltatore che all'SMS dice: la solita arroganza di Radio 24 contro i 5 Stelle, non avete fatto parlare la portavoce. No, a me questo spiace perché io volevo invece sentirla. L'abbiamo fatta parlare, come, solo che alla fine Carlo stava facendo una domanda, ma lei continuava a parlare e non si sentiva la domanda di Carlo, lei non ha sentito, il tempo si è esaurito, non abbiamo potuto concludere l'intervista con un'ultima domanda. Lei ha detto abbondantemente il suo punto di vista sulla, diciamo, la copertura, il cantiere di cemento che copre, lo scheletro di cemento che copre il cantiere per la realizzazione del canale che bypassa il Ferreggiano per evitare nuove alluvioni a Genova, questo ricorso che i 5 Stelle in qualche modo sostiene, la posizione l'ha espressa, credo, tranquillamente. Allora, adesso andiamo con gli ascoltatori e iniziamo da Stefano che ci chiama. Da dove ci chiama Stefano? Genova. Da Genova, buongiorno. Buongiorno a voi. Buongiorno. Sempre su questo argomento, anche perché io seguo questo problema del litorale, perché sono il presidente regionale della Diconsum. Associazione dei consumatori. Certo, guarda, io sono di quelli che ha fatto passare la legge regionale sul 40% di spiagge libere, perché diciamo, noi in Liguria spiagge libere ce ne sono poche di fronte alla città. Quindi è vero. Io ho su quel litorale quindi l'occhio da più di 10 anni. E qual è il punto? Sull'ecomostro? Esatto, che quell'opera lì effettivamente non c'entra niente con la realizzazione del Ferreggiano. Quando ci hanno presentato l'opera che veniva realizzata, non, diciamo, nella presentazione del progetto non ci fu prospettata una copertura talmente impattante. Se io vi mando una fotografia vi rendete conto. Sì. Veramente è un ecomostro. Però scusi, la stoppo subito Stefano, perché l'avrebbero realizzata? Perché si divertono a, diciamo, a usare il cemento? Perché c'è il sospetto, perché arrivo, sì, perché ho voluto chiamare, diciamo, c'è il sospetto? È stato dentro. Che siccome è stata revocata una concessione allo stabilimento balneare per realizzare momentaneamente 3-4 sì, anni tra l'opera, di, diciamo, supportare sopra questo catafalco. Di poter trasferire lì quelle attività economiche che erano state impedite di farle sotto. Anche perché se no potevano realizzare, per mascherare il cantiere, un'opera, una pensostruttura molto leggera, anche perché non è talmente impattante in città. Sai perché? Perché questo cantiere è tra il Corso Italia e il mare, quindi anche lontano dalle abitazioni. Quanti cantieri tante volte vengono aperti in città e non sono chiusi, e cittadini e condomini vicini devono subire rumori, emissioni rumorose. Va bene, se questo è il sospetto, era esattamente la domanda che stavo facendo al portavoce del Movimento 5 Stelle, ovvero, quindi esiste la possibilità che questa struttura sia stata creata indipendentemente dal cantiere, che sia in realtà un altro progetto, una concessione da dare, e che dietro ci sia dell'altro? Questa era esattamente la domanda, quindi io la ringrazio molto intanto di avercelo spiegato. Ci ha aggiunto un elemento che noi non sapevamo. Poi se quello che lei dice, o che in qualche modo voleva dire anche il consigliere dei 5 Stelle, sia la verità o no, probabilmente è difficile saperlo, forse ci vuole veramente questo ricorso a questo punto, che dire. Il problema però è che coi ricorsi, lei lo sa benissimo, si blocca il cantiere momentaneamente, no, perché la portavoce ha già detto di no, nell'attesa della decisione del giudice possono dare una sospensiva e a quel punto addio lavori, e l'anno prossimo, il prossimo inverno, ma l'inverno non è ancora finito, io non vorrei che ci fosse un'altra alluvione e qualcuno dovesse avere sulla coscienza qualche cosa. Questa è la preoccupazione. Va bene, comunque andiamo avanti. Maria Teresa dalla provincia di Trento, buongiorno. Buongiorno. Io sono una nonna, non una mamma, che devo raccontare cosa è capitato con la mia nipotina di 5 anni. Sì. E a forza di passare in fondo alla via dove ci sono le locandine dei morti, un giorno esterrefatta mi dice: ma come mai, nonna, non c'è mai la tua foto sul muro, che sei così bella? Oh, bella questa è bellissima. E lei cosa ha fatto, Maria Teresa? Diciamo, Le ho detto, aspetta che sia una stella in cielo, che poi vedrai la foto. Aspetta, mi sembra la risposta migliore. Soprattutto aspetta, speriamo che aspetti tantissimo. Speriamo. Va bene. Grazie mille per aver chiamato. E già, perché noi stamattina vi stiamo chiedendo di raccontarci i vostri, diciamo, aneddoti, episodi che hanno a che fare con l'ingenuità l'ingenuità dei bambini, col caos che fanno i bambini, che però è un caos, diciamo, creativo, divertente. Se ci togliamo il caos che fanno i bambini, finiamo per morire. Questo sì. E siamo partiti dalla notizia, secondo noi sconvolgente, di un ristorante romano che ha vietato l'ingresso ai bambini nel suo locale. Una notizia che è rimbalzata sui social network questa settimana e di cui volevamo chiacchierare. Abbiamo un altro ascoltatore, forse? No, ci fermiamo, ci torniamo tra poco dopo la pausa. 800 24 00 24. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Allora, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno da Alessio Maurizi. E da Carlo Gabardini, buongiorno e buon sabato a tutti. Allora, tra poco vi informeremo su quello che si discute in Europa a livello di limiti anti-smog, perché c'è una proposta che, insomma, potrebbe far discutere se dovesse realizzarsi. Non vi dico niente, ne parliamo tra un attimo. Ancora un ascoltatore, Federico dalla provincia di Treviso, intanto. Buongiorno. Sì, buongiorno a voi, buongiorno. Prego Federico, su cosa volevo intervenire? Allora, fin da piccola abbiamo abituato nostra figlia a venire a teatro. Sì. La sera, uno spettacolo di danza, applausi, si chiude il sipario, quei due secondi di silenzio, si sentite la voce di mia figlia che dice: mamma, non mi è piaciuto. E hanno sentito tutti, è stato molto divertente. Poteva dire di peggio, tipo che schifo. Infatti, di erano ballerini italiani? No. Non lo dico perché non credo che abbiamo ballerini italiani straordinari. No, ma non volevo spingerla alla delazione, volevo semplicemente sincerarmi che gli artisti non avessero capito, o forse se lo meritavano, perché spesso poi i bimbi hanno ragione, magari lo spettacolo faceva veramente schifo. Com'era? E lo volevano dire tutti, l'unica che ha avuto il coraggio. Mia figlia, e credo che sia giusto che a qualcuno non piaccia. Certo, ma com'era lo spettacolo? Era piaciuto? No, a me era piaciuto molto. Sì. No, perché a volte i figli captano gli umori e dicono cose che magari non si dovrebbero dire. In questo caso invece era proprio un'idea sua, a lei non era piaciuto. Va bene, ci sta, Federico. Va bene, grazie. Lo inseriamo anche lui nell'elenco degli aneddoti che riguardano i bambini. Ne abbiamo già alcuni. Poi, prima della fine della puntata, il cervellone della redazione di Radio 24 estrarrà dallo scatolone le risposte, quella che ci è piaciuta di più. Abbiamo il tempo ancora, forse, per sentirne qualcun'altra tra poco. Allora, cari ascoltatori, ve l'ho anticipato, stiamo parlando dei limiti antismog. Come sapete, noi cerchiamo sempre delle buone pratiche, delle soluzioni ai problemi. In questo caso la soluzione al problema dello smog starebbe, anziché abbassare, diciamo, le emissioni delle auto, per esempio, alzare i limiti, e così si risolve il problema, perché è quello di cui sta discutendo l'Unione Europea. Ne parliamo con Raimondo Orsini, direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Allora, è una vicenda un po' difficile da raccontare, è un po' tecnica, però ci spieghi esattamente se ho detto bene, cioè se non saranno più i motori ad adattarsi alle esigenze, diciamo, dei nostri polmoni, quindi, diciamo, espellere un po' meno di polvere sottile, e invece i nostri polmoni ad adattarsi ai motori, perché l'Unione Europea che fa alza i limiti. Una decisione che viene da una strategia che lei forse ci aiuterà a capire. A noi sembra un po' assurda, ma insomma. Sì, innanzitutto è vero, è un po' surreale, un po' assurdo, ma è vero. Il punto è che la colpa non è tutta da una parte, ma il risultato è questa assurdità, nel senso che con lo scandalo Volkswagen ormai si è scoperta al grande pubblico una cosa che si sapeva tra i tecnici ormai già da anni. L'acqua, cioè, calda, come si dice, si sì, è scoperta l'acqua calda. Nel senso che le emissioni reali delle automobili, quelle proprio che si misurano sì, in strada, sono addirittura 5, 6, 7 volte maggiori di quelle dichiarate nei test di omologazione che si fanno in laboratorio. Questo si sapeva, ormai è diventato, diciamo, ufficiale e conosciuto, e quindi la Commissione Europea si è trovata con la difficoltà di affrontare questo problema. Siccome i costruttori delle automobili hanno già in linea di produzione o addirittura già prodotte le automobili da immatricolare Euro 6 con lo standard Euro 6, come si fa a sostenere che devono, diciamo, queste nuove automobili devono rispettare limiti così bassi rispetto alla realtà, a quelli a cui erano abituati in maniera, fra virgolette, fraudolenta fino a oggi. L'unico modo è quello di permettere che questi limiti vengano alzati. Allora si arriva quindi al paradosso per cui la norma che si sta discutendo a Bruxelles è quella che permette di avere, diciamo, uno sforamento fino al doppio nella guida reale, nelle emissioni reali, rispetto a quello nei test di omologazione. Il doppio, beh, non è poco. Senta, però, ci spiega Orsini, chiariamo un po' quali sono i luoghi, Commissione, Parlamento europeo, qual è la norma che si discute? Perché, insomma, sappiamo che la Commissione, diciamo, è il luogo delle decisioni, il Parlamento però è il luogo della trasparenza, no? E quindi ci interessa sapere. Questo sta succedendo esattamente questo, una lotta fra Parlamento e Commissione, perché la Commissione, diciamo, è l'organo decisionale, quello che poi emana i regolamenti, alcuni regolamenti, alcune direttive, ma soprattutto emana le disposizioni operative. Il Parlamento ha una funzione soprattutto di controllo, oltre che in alcuni casi legislativa. Il Parlamento, diciamo, non ci sta a questa decisione della Commissione, anche perché il Parlamento è dove si fa politica e la politica è quella che deve prendersi delle responsabilità in materia di ambiente e di salute dei cittadini europei, quindi non ci sta a una proposta così palesemente diciamo antitetica rispetto agli interessi ambientali. E quindi in questa lotta ha portato a uno spaccamento nel Parlamento europeo fra le varie forze politiche, a un dibattito molto forte, e quindi ha portato al fatto che venisse rimandato di un mese la decisione. Quindi la decisione finale si prenderà il 10 febbraio, mentre dovrebbe dovuto prendersi. Quindi occhi puntati sul 10 febbraio per sapere, perché questa è una di quelle cose che poi magari non dico nel silenzio, ma insomma un po' nel disinteresse, nella disattenzione, poi cambiano le carte in tavola e dopo tutti i discorsi che abbiamo fatto fino a qualche giorno fa, settimana fa, sullo smog, poi diciamo rischiano di prendere un'altra piega. Senta, come direttore della Fondazione per lo Sviluppo Sostenibile, la vostra opinione qual è? Cioè, le case automobilistiche sono veramente nell'impossibilità di rispettare questi limiti, quindi una deroga temporanea è sensata, oppure bisogna fare uno scatto proprio in questo momento e quindi imporre questi limiti per delle emissioni, diciamo, più basse? Allora, le possibilità tecnologiche di avere limiti più bassi nella realtà ci sono ormai: l'auto elettrica, l'auto ibrida, ma anche l'auto a gas, GPL e metano. Non dimentichiamo che l'Italia è il leader mondiale, e questo non tutti gli italiani lo sanno, nella produzione di veicoli e soprattutto motori a gas per veicoli, no? Già quello basterebbe, perché hanno delle emissioni molto più basse rispetto al diesel, per esempio. Quindi la tecnologia esiste, i costruttori ce l'hanno, molti costruttori stanno investendo cifre pazzesche a livello mondiale su queste nuove tecnologie. Bisogna accettare il fatto che il mondo dell'auto è cambiato e che il motore a scoppio non può essere, nel 2016, nel 2020, non può essere ancora la soluzione come 150 anni fa. E quindi la tecnologia esiste, il problema però, bisogna essere onesti e sinceri, è che quando hai già prodotto dei veicoli che devi vendere è difficilissimo cambiarli all'ultimo momento, quindi non è colpa solo dei produttori, la colpa è anche, come diceva lei, come dite spesso nel vostro programma, del fatto che non si programmano certe cose ambientali nel tempo. Si accorge quando si apre il vaso di Pandora, sappiamo tutti che esiste il problema, però poi si richiude il vaso e magari non si fa niente per anni. Cioè, il problema adesso è smaltire queste automobili che sono state prodotte e che di fatto sono più inquinanti di quello che ci si aspettava o che era stato dichiarato. Esatto, e spingere i produttori, forzandoli, perché non possono essere i produttori a fare le politiche, ma i politici a decidere, che già dal 2018-2020 si investa pesantemente su nuovi veicoli meno inquinanti. Non ci dimentichiamo che i morti per le emissioni inquinanti sono 20 volte di più che i morti per incidenti stradali, solo che si vedono di meno, ma sono 20 volte di più, 80.000 morti l'anno nelle nostre città per le emissioni inquinanti, soprattutto dei veicoli. È una cosa gravissima, bisogna prendersi delle responsabilità più forti, questo sosteniamo come fondazione. E l'Italia all'interno della Commissione che posizione ha preso? L'Italia ha preso una posizione simile a molti altri governi europei, sì, diciamo a favore della proposta della Commissione, cioè diciamo a favore dell'industria automobilistica, che secondo il parere di questi governi avrebbe un danno troppo forte a modificare e abbassare i limiti troppo velocemente. Su questo noi come fondazione non siamo d'accordo su questa posizione, ma non solo noi, c'è tutto un network, diciamo, di tecnici e di ambientalisti che numeri alla mano sì. Non sono d'accordo, sarebbe molto buono aggiungere un compromesso, è quello che si sta facendo a Bruxelles, perché poi come sapete le cose poi si fanno fuori dalle sedi ufficiali, si sta tentando da qui al 10 febbraio di arrivare a un compromesso, magari cioè di non raggiungere degli obiettivi così palesemente surreali, ma tentare di fare un compromesso. Ecco, anche l'Italia... perché, insomma, io sono d'accordo con lei, sarebbe un po' come dire, è vero che non si può all'improvviso chiedere alle case automobilistiche, ci sono ovviamente posti di lavoro, di chiudere e di fallire in un secondo perché non possono vendere le auto prodotte, però sostanzialmente sono state queste stesse case automobilistiche a produrre delle auto, certo, che inquinavano più di quello che loro stessi dicevano e certificavano, certo, quindi è un problema che devono risolvere. Ma come si fa a dire a un cittadino, come dire che un cittadino compra una medicina con la scadenza scritta sopra, però poi la medicina è già scaduta da un la anno scadenza non prima. È quella. Cioè è una questione non solo ambientale ma di trasparenza, non si può permettere un metodo del genere, no? Già la Commissione e l'Unione Europea ha delle crisi di identità perché gli europei non amano tanto l'Europa. Se poi permettiamo queste formule, diciamo così, un po' poco trasparenti, diciamo, come si fa a credere nelle istituzioni? È difficile, no? Bella domanda. Su questa ci fermiamo. Noi la ringraziamo, Raimondo Orsini. Grazie per essere stato con noi. 10 febbraio, occhi puntati a Bruxelles. Staremo a vedere. Traffico. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Knocked up 9 months ago. And what she finna have, she don't know. She want neo soul, cause hip hop is old. She don't want no rock and roll. She want platinum or ice and gold. She want a whole lot of sun to fold. If you an obstacle, she just drive you cold. Cause one monkey don't stop the show. Little Mary's bad. In these streets she done ran. Ever since when the heat began. I told a girl, look here, calm down, I'ma hold your hand. To enable you to beat the plan, cause you was quick to learn. And we can make money to burn. If you allow me to lay this game, I don't ask for much, but enough room to spread my wings. And the world finna know my name. I don't ask for much these days. And I don't bitch and whine if I don't get my way. I only wanna. Allora, come sapete, noi siamo dei fan, proprio nel senso che siamo dei fanatici dell'agricoltura. Delle possibilità aperte dall'agricoltura dal punto di vista occupazionale, ma insomma, cosa c'è di più importante di quello che mangiamo? E... occhio a dire fanatici, occhio. Sì, occhio, sì, no, poi su questo oggi è il giorno delle unioni civili, bisogna stare attenti. Fanatici puri proprio, non solo di quella biologica, dell'agricoltura in generale. In questo caso, però, parliamo di un'iniziativa che viene proprio dall'AIAB, l'Associazione Italiana per l'Agricoltura Biologica, che lancia la campagna Coltiviamo Biodiversità. È un hashtag un po' lungo per twittarlo, ma non importa, perché qua più che twittare bisogna andare a zappare la terra. È con noi Vincenzo Vizioli, presidente di AIAB. Buongiorno. Buongiorno. Allora, l'iniziativa che mira a fare un... che cosa? Ce lo racconti lei? Un censimento di tutti i semi, sementi, antichi, nuovi, moderni. Che cosa? È una iniziativa che vuole, scusate, vuole disseminare biodiversità, utilizzando dei miscugli di varietà da dare alle aziende che lo coltiveranno e faranno evolvere queste popolazioni per arrivare a prodursi della semente con una base genetica ampia. È la risposta alla concentrazione delle sementi in poche mani, perché quattro multinazionali controllano praticamente il 75% del mercato del seme e altrettante il 70% del mercato dei pesticidi. E noi vogliamo dare a questi miscugli che vengono dalla ricerca, che vengono da incroci fatti in diversi progetti, alle aziende biologiche che avranno poi il tempo e la capacità e l'assistenza tecnica per fare quella che si chiama selezione evolutiva, cioè l'evoluzione di una popolazione all'interno di un ambiente. Senta, io dico una piccola cosa che ho imparato su questa questione delle biodiversità e dei semi. Un agricoltore siciliano ci ha spiegato come utilizzando antichi semi per fare il grano e quindi poi la farina, molto, una varietà molto ampia di semi, è riuscito in qualche modo a disorientare i parassiti, quindi lui non usa antiparassitari chimici, non ha bisogno di OGM e produce un grano che fa un pane meraviglioso. Io ho imparato questo sulla biodiversità. Mi dice lei però invece un argomento, perché bisogna tutelare questa, che noi sentiamo sempre dire, della biodiversità, poi ci si domanda ma a che serve, perché è così importante? È equilibrio e quindi la frase che diceva lei è disorienta i parassiti, perché non c'è specializzazione della coltivazione, quindi variando le colture, variando anche la presenza di microrganismi nel terreno, perché noi quando facciamo le rotazioni, quando facciamo la diversificazione culturale, poi diamo da mangiare cose diverse al terreno e facciamo crescere diversi ceppi di microrganismi, e questi qua garantiscono la vita del terreno. Senza biodiversità non c'è vita, e quindi la forza che ha l'agricoltura biologica è quella di essere un binomio inscindibile della tecnica culturale con la biodiversità. Se non c'è biodiversità non c'è biologico. Va bene, senta, ci dice come si fa in 30 secondi ad aderire a questa iniziativa? Cioè in 30 secondi a dircelo, ad aderire, poi il tempo che ci vorrà. Questa iniziativa ha un sito, ha dei partner e ha anche una richiesta di fondi dal basso, perché noi distribuiremo questi semi a chi li chiederà, si possono chiedere all'AIA o ai partner dell'iniziativa. Quest'anno noi faremo un censimento di tutte le risorse che abbiamo in giro per poi distribuirle e andare nelle aziende a... Quindi la cosa più facile, sintetizzo io, è andare sul sito dell'AIAB e vedere come si fa. Oppure tra i partner, ne cito uno perché il nome del sito è bellissimo, è miscugli.it. Io quando ho visto miscugli.it ho pensato che bel dominio. Fantastico. Quello. Fantastico, grazie mille. Grazie mille Vincenzo Rizzioli, presidente AIAB. Abbiamo un minuto per chiudere, circa, forse qualche secondo di più. Lorenzo, dalla provincia di La Spezia, un ascoltatore, buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno. Vi volevo raccontare questo episodio di miei figli che risale un po' di anni fa. Io ero un giovane dirigente e in quel periodo riunioni su riunioni, progetti vari, per cui quando mi cercavano i bambini e mia moglie in riunione. Non rispondeva mai. Sì, la segretaria segnalava riunione, insomma si era creato questo fatto riunione. Quell'estate lì eravamo poi andati in Sardegna e all'interno grande estensione di terreni, un sole cocente, un unico albero. Sotto questo albero mio figlio più piccolo nota un gruppo di pecorelle tutte attaccate nell'ombra. Sì. Dice: papà, papà, sono in riunione quelle pecore. E noi abbiamo molto riso. Vabbè, tra l'altro è perfetto, perché una riunione di pecore è un disastro, appena si contano si addormentano tutti, quindi è proprio... Insomma, io non ci sono rimasto benissimo, dico, ma come? Mi ha costato, vabbè, comunque... quello che suo figlio aveva capito delle riunioni era più o meno quello. Grazie Lorenzo, grazie. Leggo l'SMS velocissimo, sì. Perché se avesse telefonato forse avrebbe vinto il nostro premio. Dice: mio figlio non capisce perché non riesce a spostare i pesciolini nell'acquario puntando il dito sul vetro come fa con l'iPad. Ora sta cercando il modo di ingrandirli. Gianni. Ma sentiamo anche Franco, però abbiamo 30 secondi per chiudere. Sì, Franco, da Cuneo. Sì, pronti. Beccolo. Allora sono un nonno, ho portato la mia nipotina Sofia di 6 anni a vedere Quo Vado di Checco Zalone, e mia nipotina rideva come una matta. Io pensai, per una simpatia emulativa con gli spettatori, perché molte battute non erano alla sua portata. A un certo punto, nel silenzio del cinema, lei forte mi chiese: ma nonno, che cos'è il posto fisso? E tutti risero come se fosse stata un'altra battuta. Benissimo, grazie Franco, grazie mille. Dobbiamo assegnare il premio. Sì, a questo punto lo scatolone della redazione estrae Maria Teresa, che ci ha raccontato la bellissima storia della bimba che passa di fianco agli annunci funebri e dice: ma nonna, quando è che apparirà la tua foto, che sei così bella, perché non mettono anche la tua foto sul muro? E lei dice: aspetta. E lei dice: aspetta. Ok, grazie a tutti, ci risentiamo domani. Un ringraziamento ad Andrea Piana, scritto insieme a noi il programma, Claudia Schiattone, Peter Bescapè in regia. regia. Ricordiamo oggi manifestazioni in 100 piazze italiane per le unioni civili. Svegliati Italia, chi vuole andare si informi dove nella propria città ci sarà la manifestazione. Ciao a tutti, da Alessio Maurizi e da Carlo Gabardini. A domani.